vi sento. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao a tutte, a tutti. Vai tu. Ok, siamo in piazza, ancora il corteo non è partito, si sta riempiendo a vista d'occhio, fra pochi minuti il corteo partirà, sono arrivate la maggior parte delle città e dei nodi di una di meno, ancora i pullman si stanno svuotando, il corteo fra poco parte, insomma siamo entusiasti, si è appena data una performance artistica di un collettivo artistico transfemminista palermitano e adesso partirà il corteo. Ok, ci vuoi raccontare un po' il clima sì, della piazza, perché abbiamo sentito che delle compagne insomma avevano avuto delle storie per un manifesto, un striscione. Il clima è sicuramente fucsia, è molto animato e glitterato. In generale si sono creati dei problemi perché il corteo insomma transfemminista di una di meno è stato costruito durante tutto il percorso che è arrivato fino ad oggi come un corteo senza sigle partitiche o di appartenenze politiche di struttura, e ci sono stati insomma degli episodi in cui questa cosa non è stata rispettata ed è stato fatto notare questo problema, e adesso è tutto rientrato per adesso.